Take a vol aus ihr Schanzus, der in nostra compagnia scar, che ucial per mon cor allegrar, e per sulat del compagnius, e mai spertal che ne diven pes, ami dont vlages, cautra voluntas num destreng, resulat nire per capteng. Pos valqui nunes et vegius, eci nun dici rapiscar, eci nun sen tremet d'amar, greu potesser galliard ni prus, car d'amurs ven cauci ven pes, e per amures om cortes, et amurs don all'arte cen, perche bun prez truba amante. Stop. Man quivava saber ramuri tan petiten sai, car Iulda mar nun posc tener, se l'adunt già pur un aurai. Tot mam un cor, e tot mam me, e si me sei se tut lumun, e canesim tolcnum laeset rei. Mas desirier icor in cantan mavena membrar, sulceo tuit chantan oblidar, mas per sot chant c'oblides larulur, el mal d'amur. Mas ad plusan, plus mi suvi, calabutan illa res num avi. Mas uns me ersi, perche vertate semblan pe quid il cor port domna vostra chastia eunu vir marazu. E pois amur mi volun rar, tan quel corvus mi fai portar. Per merceus prec, quel gardat del ardur, che hai paur de vos mult major che de me. E pos mun cors domna vos ad in se, se mal nen ve, pos dintel suffrir el d'un ve, e per suffais del cor, so che io serbu. El cor cardat sicur vostra maestà. Laudretus tenas hybisa, trupei pastura vestissa. Betroieres in mafisa, beful filiare villana. Cape cundelle pellissa, queste camisa trestissa, volarsi causa dellana. Au per la planissa, tu saffi miu resfaltissa. Do lai grondele ven causfissa, senier fodis la villana. Merse tu e manurissa, bauc mu presil ven merissa, d'allegre tassa e sana. Capsi paire loric valen Richard res des engles Aeus, cal perde caldanes, cum est rang mut, cum salvagia dausit, bena dir cor tut sam quel pot Thank you. sing ieres, che se verrai scap di l'airi, vira luce merses vus fasa sel perdun cum hops char se oblire falli e membre fos cum vos anece tornat sui en Provenza et a Madonna sabu ven dei farga ia canestu si vals per recunoi sensa cab servire tabun rar cun querom debus eniur, nun se ben faecet unur, il ben sap teniren car, per quieu men vuies forza. Speciat pris penitenza, es est tort farcis perdun, e pris renient ricdun, et racdira benevolenza. E gaucentier deplorar, ed amar dulsa sabur, e sui ardit sper paur, e sai perdent gazangiar. Soprar. Lancan lid journe sun lungen mai, mes beldus chans raus elferellum, ecan mi sui partit delai, remembram d'un amour de Vaudita la nembrum seclis, sicce chans ni flurt ad albes pis, num val plus che bella cara ni am tant belle scar e chi penet cara su che dius vals miels var mira vostra cara e vostri bels cor scar placent dona cara dusa sent tut amar dusa moben ora nil somni upot far amus benes mus accot qui accot sapemus cant tut sems mai et rest fins ai mat verrai qui plasur late de pots qui rescot nun deur far qui non si rais Perculais rescos per fara cors gais entres gais. Mut menuggia Suoses dire, am parliers che sa vol servire, et am che trop fa l'autra vire, menuta e cavalche cire, et enuciam si teus magit, tu ves am che trop parte scit, che negun calb nuita haigit, capinal e munci barbit, e laus en terbe che smullit, Et enc dona per enolciusa, cantes paubrani ergoiusa, e varrit camma trop se spusa, nei serra dona de Toulousa. Et enulciam di cavaliers, fortes un pais siffanier, canten luceu non da messier, ma sol de pizzar el murcier, pebre, ud est ar al fuquier.